DJ Skid. Bola G and Osai. Il mio nome è Bola e questo è G-Style. Nato nei bordi o per amici guai. Sopra il quarto stato ci cammino da sempre. A botte non mi fotti, sono il king da sempre. Con le rime io ti brucio, poi strisci come un verme. Chiama chi vuoi, la paura non serve. Non lavoro al call center, non vivo nel presente. Non sono nell'elenco e non me ne fotte niente. Caccio rime e produco beat. Questa è la mia vita, in completo stile G. Rimbambito dal tempo in quattro quarti. Innamorato delle quattro arti. Quando vieni dai bordi, la vita la mordi, che se non lo scordi. Qui non c'è nessuno che mi può fermare, fra. Quando vieni dai bordi, la vita la mordi, i sogni rincorri. Qui non c'è nessuno che mi può fermare, bro. Vogliono bloccarmi ma io corro più forte. Vai sicuro io non apro ma le sfondo ste porte. Non ho tempo per gli scazzi ma se cerchi qua li trovi. Prendi in culo e porta a casa e poi piangi da papà. Qui è la vita loca, gioca resta buono, buono. Lungo i bordi di questa città. Questi sono blocchi ma blocchi di partenza. Io me ne voglio andare di sta merda. Voglio fare senza. Voglio fare il cash perché non ho avuto niente. Io lotto col passato e faccio pugni col presente. Make money. Quando viene dai bordi, la vita la mordi, che se non lo scordi. Qui non c'è nessuno che mi può fermare, fra. Quando vieni dai bordi, la vita la mordi, i sogni rincorri. Qui non c'è nessuno che mi può fermare, bro. Voglio fare tanto cash da coprire mia madre. Stai sicuro me lo compro sto quartiere popolare. Sono a caccia di contanti tutto quello che vale. Messo come adesso non mi pago il funerale. Messo come adesso qui la rabbia che sale. Messo come adesso lascia stare. L'erba del vicino non la devi toccare. Dammi mille nomi ma non chiamarmi infame. L'erba del vicino non la devi guardare. Divido la mia erba con il mio compare. La legge non protegge, con noi non chiude gli occhi. Commissario io non c'ero, ero chiuso dentro i blocchi. Restami compare nell'affare, dammi il cuore. Vai sicuro io non parlo. Lo giuro sul mio nome. Bola G. Quando vieni dai bordi, la vita la mordi, che se non lo scordi. Qui non c'è nessuno che mi può fermare, fra. Quando vieni dai bordi, la vita la mordi, i sogni rincorri. Qui non c'è nessuno che mi può fermare, bro. Quando vieni dai bordi, la vita la mordi, che se non lo scordi. Qui non c'è nessuno che mi può fermare, fra. Quando vieni dai bordi, la vita la mordi, i sogni rincorri. Qui non c'è nessuno che mi può fermare, bro.